3. Gelatina. Muscolo senza osso, vedi numero 323, grammi 500, una zampa di vitella di latte oppure grammi 150 di zampa di vitella. Le zampe di due o tre polli, due teste di pollo coi colli. Le zampe dei polli sbucciatele al fuoco e tagliatele a pezzi. Poi mettete ogni cosa al fuoco e in 2 litri d'acqua ghiaccia, salatela a sufficienza e fatela bollire, schiumandola ad agio per 7 od 8 ore continue, talché il liquido scemi della metà. Allora versate il brodo in una catinella e quando sarà rappreso, levate il grasso della superficie. Se non si rappiglia, rimettetelo al fuoco per stringerlo di più, oppure aggiungete 2 fogli di colla di pesce. Ora la gelatina è fatta, ma bisogna chiarificarla e darle colore d'ambra. Per riuscire a questo, tritate finissima col coltello e poi pestatela nel mortaio, grammi 70 carne magra di vitella. Mettetela in una cazzaruola con un uovo e un dito di bicchiere d'acqua, mescolate il tutto ben bene e versateci la gelatina ghiaccia. Non smettete di batterla con la frusta sul fuoco finché non avrà alzato il bollore. E poi fatela bollire ad agio per circa 20 minuti, durante i quali assaggiate se sta bene a sale e datele il colore. A questo scopo basta che poniate in un cucchiaio di metallo non stagnato 2 prese di zucchero e 1 gocciolo d'acqua. Lo teniate sul fuoco finché lo zucchero sia divenuto quasi nero, versandolo poi a pochino per volta, onde avere la giusta gradazione del colore nella gelatina bollente. Alcuni ci versano anche 1 bicchierino di marsala. Ora prendete un asciugamano, bagnatelo nell'acqua, strizzatelo bene e per il medesimo passate la detta gelatina, ancora ben calda, senza spremere, e versatela subito negli stampi. D'estate, qualora non si rappigli bene, ponete questi sul ghiaccio. Quando la vorrete sformare, passate leggermente intorno agli stampi 1 cencio bagnato nell'acqua bollente. E il bello della gelatina è che riesca chiara, non dura, trasparente e del colore del topazio. Essa ordinariamente si serve col cappone in galantina o con qualunque altro rifreddo. È poi un ottimo alimento per gli ammalati. Se prendesse l'agro, per non averla consumata presto, rimettetela al fuoco e fatele spiccare il bollore. Anche il brodo comune si rende limpido nella stessa maniera, od anche con la carne soltanto.